sta iniziando Tracce di Cinema, la trasmissione che si occupa di cinema e di musica e vi intrattiene con delle splendide colonne sonore. È vero, Fede? Ce la cantiamo e ce la suoniamo stamattina, oggi. E beh, oggi parliamo di diversi film, ma soprattutto di un gruppo musicisti italiani, ma di adozione europea e precisamente francese, perché vivono in Francia, se non sbaglio, a Parigi, e formato da veramente tanti elementi che vengono un po' da tutta Italia, cioè un lucano, due campani, un siciliano e un friulano, dottor Zingarone, mister Braga, o malamente o professore e Frank, questi nomi dei ragazzi che compongono questo gruppo Guapecartò, giusto? Guapecartò, esatto. Guapecartò, che viene dal napoletano, il guapo era, diciamo, quella figura un po' illegale che frequentava i quartieri di Napoli, che aiutava le persone in difficoltà a dispetto di tutte quelle che erano le regole della giustizia convenzionale, ed è considerato, pensa, anche ancora oggi un insulto a Napoli. Dicono, se è un guapecartò, vuol dire che non vale come un cartone, okay. Vale nulla. E loro sono fantastici. Io ho letto la loro biografia, tutto è iniziato come nelle migliori favole, perché sono stati basker, hanno suonato per strada per un sacco di tempo, e poi un'attrice li ha scoperti, Madeleine Fischer, e li ha presi sotto la sua ala protettrice e li ha lanciati. Hanno avuto un grande successo, non perché, insomma, sono stati protetti da questa importante, insomma, personaggio dello spettacolo, ma perché, insomma, sono veramente molto bravi, e così hanno iniziato il loro cammino musicale. Tre album, mi pare, due colonne sonore per il cinema e altre colonne sonore invece per documentari, giusto, Federico? Spettacoli teatrali, se non sbaglio. Ce lo faremo dire da loro con più precisione. Sì. E per quanto riguarda invece le nostre colonne sonore, di cui ascolteremo un po' di tracce, sono due film di animazione bellissimi: L'arte della felicità, Gatta Cenerentola, uscito da poco in lizza tra i film stranieri per gli Oscar, giusto? Sì. E poi abbiamo ancora, sempre da ascoltarci, qualche brano da 195 metri di Alessandro Cosmo, Marco Fortunati e Maria Zasusi, e altri brani invece da due brevi film, non so se è un film, Federico, perché io di questo cortometraggi, Murire au son de violin e Kino K 2012. Però io direi di iniziare con la musica. Poi sentiremo loro. Sì, e poi sentiremo loro. Thank you. Questa era Delicate infiorescenze, mia cara Ottavia. Sì, dal film di animazione L'arte della felicità di Alessandro Rack del 2013, presentato al Lido come evento di apertura alla sezione collaterale della settimana della critica, della 70ª edizione del Festival del Cinema di Venezia. È stato esordio in quanto è stata la prima opera prima come regista di cinema del disegnatore, animatore e fumettista Alessandro Rack. È una storia molto semplice, io l'ho vista ieri sera, mi è piaciuta tantissimo, che racconta uno dei motivi più ricorrenti nell'esistenza umana, quello della separazione, e quanto più amiamo una persona, quanto più soffriamo separandosene, no? Tra l'altro Rack l'ho avuto ospite nelle due occasioni dei due film a visionare, sì, è in gamba, è simpatico. E ti dico che io ieri sera gli ho scritto un'email dopo che stavo preparando la trasmissione, gli ho scritto una mail perché sono andata sul suo sito internet, ho visto i disegni di Alessandro e del suo socio, di cui adesso mi sfugge il nome, sono bellissimi, vi consiglio di andarla a visitare perché è molto ben fatto. Ho provato anche a scriverli sperando di farti una tua sorpresa, di riuscirlo a contattare telefonicamente, ma non ci sono riuscito. Ho fallito miseramente. Bastava dirmelo, lo avremmo sentito. Ma dopo non te la volevo dare sta soddisfazione, l'avevo fatta da sola. Vabbè, comunque, insomma, di questo film vi dico qualche cosa, poi dopo ascolteremo il nostro ospite. Tutto si svolge in una Napoli preapocalittica, invasa da rifiuti, nebbiosa, cupa, afflitta da una pioggia battente, un po' la proiezione dello stato d'animo del protagonista Sergio, che è un pianista che ha deciso di smettere di suonare da quando il fratello Alfredo è partito per l'India, e ritirandosi in un monastero buddista, Sergio ha sofferto molto di questa separazione. Poi il fratello Alfredo muore in questo film, e Sergio si richiude in questo taxi e guida tutto il giorno, guida incessantemente giorno e notte senza fermarsi mai, intrappolato dai ricordi e da questa sua tristezza, questo suo senso di vuoto rispetto a questa perdita importante. Durante queste lunghe corse in taxi ci sono continui flashback di ricordi della sua infanzia, si affastellano continuamente gli uni sugli altri, si mescolano anche con le storie di vari personaggi che entrano nel taxi e gli raccontano di volta in volta la loro storia. A far da cornice all'intera vicenda c'è uno speaker radiofonico il cui programma si chiama proprio L'arte della felicità, che è un po' un profeta, un po' un saggio, un po' mi ha ricordato anche la voce radiofonica dei Guerrieri della Notte, che però è una voce tutta femminile, un po' diversa. Beh, insomma, lui è un po' un guru notturno, e la musica è al centro di questa opera, è dappertutto, però non è una musica proprio radiofonica come uno se l'aspetterebbe, no? Perché questa radio è sempre presente all'interno del film, quindi uno si aspetta anche dei brani radiofonici, insomma, non commerciali, ma insomma conosciuti. Invece sono quasi tutti abbastanza inediti, almeno lo sono stati per quanto mi riguarda, non li conoscevo, molto belli. Ci sono tanti artisti, tutti partenopei, oltre a Guapé Cartò, c'è Foglia, Newt, 24 Grana, Gioia Barbieri, Luca Di Maio, e compongono veramente una bellissima colonna sonora. We'll be right back. Saint-Denis per quanto riguarda i guappe cartò, e abbiamo in collegamento telefonico il dottor Zingarone. Ci sei, caro? Ci sono. Salve a tutti. Bene, è un piacere averti con noi. Ci eravamo conosciuti quest'estate a Stromboli, ad un festival che non prevede il teatro ecologico, non prevede l'uso di elettricità, e quindi vi abbiamo sentito anche in acustico. Allora, abbiamo cominciato con Delicate infiorescenze, questa era Saint-Denis. Ti ho dato il benvenuto. Intanto, allora, raccontiamo un po' il vostro percorso cinematografico, Claudio. Sì, allora noi siamo un gruppo strumentale di italiani immigrati a Parigi, in Francia. Sì. E quindi, essendo un gruppo strumentale, il nostro rapporto con l'immagine è stato spesso richiesto, ed è una cosa a cui tendiamo parecchio, è una cosa che ci piace tanto fare. Sì. È una cosa che facciamo già naturalmente quando appunto componiamo i nostri brani, che comunque vengono da delle immagini. E niente, voi avete iniziato con Delicate infiorescenze e Saint-Denis, che sono stati due brani appunto che sono stati presi da un grande, da quello che secondo me è un capolavoro, che è un lungometraggio di animazione napoletano del 2013, che si chiama Latte della felicità, di Alessandro Rack. Sì, sì, che ha avuto anche ospite nella mia trasmissione di cinema, Visionari, sì. Ah, sì, sì, che ha vinto anche dei bei premi in Europa, miglior lungometraggio, insomma, che rappresenta comunque una bella sfida. E abbiamo fatto parte, ripeto, con grande onore a questo film, e quindi sono stati presi questi due brani. E il gruppo è nato in realtà da Madeleine Fischer, che è un'attrice degli anni 50-60 che aveva fatto qualche film in realtà con ha fatto un film con Antonioni, con Alberto Sordi, ed è lei che nel 2004 aveva scritto un film musicale che poi è uscito, diciamo, in famiglia, è stata una cosa fatta in casa, ma che ha permesso ai Guappe Cartone di nascere e quindi di creare le prime canzoni che sarebbero state a servizio dell'immagine. Quindi Guappe Cartone era un gruppo predestinato all'immagine. Sì, sì, sì. Senti, volevo chiederti anche cosa state combinando in questo periodo, perché quando ci siamo conosciuti quest'estate mi dicevate che in autunno sarebbero successe delle cose. Beh, innanzitutto a proposito di cinema, sì. Sempre la stessa produzione dell'Arte della Felicità ha fatto uscire a settembre, il 14 settembre, La Gatta Cenerentola. Certo. No, Gatta Cenerentola. Gatta Cenerentola. Che abbiamo avuto la fortuna di andare a Venezia, e che adesso sta concorrendo per come film, miglior film d'animazione per l'Oscar, quindi nelle ultime 26, nelle prime 26, tra queste 26 verranno scelti 5 film, e di questi 5 film andranno poi alla finale degli Oscar. Sì. Loro ci sono, noi ci siamo insieme, quindi stiamo seguendo un po' gli sviluppi di Gatta Cenerentola, che sta avendo un bel successo dal punto di vista anche della critica. C'è critica positivamente arrabbiata in Italia, che l'ha difeso come grande film. Per quanto riguarda vedremo anche in seguito in un documentario che uscirà, ancora la data precisa non la so, però si chiama 195 metri, dove appunto ci stanno anche questi altri brani nostri. E noi adesso in questo momento torniamo da una tournée lunghissima in Italia, che è iniziata il 23 aprile a Napoli e che è finita praticamente qualche mese fa. Senti, quali tappe avete percorso in questo tour? Ma avremmo fatto un 130 date, una cosa del genere, ripercorrendo un po' tutta l'Italia. Beh. Un po' la riscoperta del nostro paese. È stata un'esperienza meravigliosa. E adesso chiudiamo, non si chiude mai niente. Adesso stiamo ritornando in Francia, dove a breve stiamo rimontando il nostro spettacolo musicale teatrale, che si chiamerà Allegro ma non troppo. Sì. Che inizieremo a fare ad aprile, e con la fortuna di avere come regista un grande regista napoletano che vive a Parigi e che sta avendo grande successo e grande seguito, che si chiama Fabio Marra. Bene, bene. Allora facciamo che continuiamo l'excursus musicale, poi ci risentiamo tra una decina di minuti e poi ripartiremo con un altro blocco ancora per quanto riguarda la musica. Va bene, va bene. Allora adesso ci ascoltiamo Aria Italiana. A fra poco, caro. Ciao. A fra poco. Ciao. aria italiana, sempre Guappe Cartò. Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre diritta verso l'apocalisse. Questa è una delle frasi dello speaker Riccardo Polizzi Carbonelli, che si sente nel film L'arte della felicità di Alessandro Rack, uscito nel 2013, pieno di poesie, nella vita si ha bisogno di poesia. In questo film molte frasi contengono degli spunti per riflettere sulla vita e sui sentimenti. Il titolo di questo film è stato scelto dal co-sceneggiatore e produttore Luciano Stella ed è anche il titolo di un famoso libro del 14° Dalai Lama, nonché il nome del festival che Luciano Stella, appassionato di filosofia orientale, organizza da oltre 30 anni a Napoli, invitando artisti, filosofi e sociologi da tutto il mondo per appunto parlare di buddismo e di filosofia orientale. Il film è stato inizialmente scritto proprio da Luciano Stella riscritto, la sceneggiatura è stata poi riscritta insieme ad Alessandro Rack, Nicola Barile e Paola Tortora, prendendo spunto parzialmente dalla morte del fratello di Luciano Stella, che si chiama proprio Alfredo, e poi insomma è nata questa storia da 40 autori, tra cui soltanto 10 disegnatori e animatori dello studio Mad Entertainment, primato assoluto, e ha avuto il primato assoluto per un film di animazione. Si sa che insomma l'animazione in Italia è quello che è, insomma i produttori sono più legati a occuparsi di cose che sono sicuri con cui sono sicuri di guadagnare, insomma che fanno botteghino. Però negli ultimi anni questo fenomeno riguardo il disegno animato insomma è diventato importante. Mi viene in mente Persepolis e Walzer con Bashir, sì, o The Green Wave. Insomma, poi non è semplice, stavo pensando, ricondurre la narrazione fumettistica a un film, perché insomma è un fumetto, come un'esplosione, cioè ci sono tanti pensieri, monologhi, flashback, insomma non è facile, sono tanti frammenti, no, all'interno di un fumetto, e quindi poi dopo rimetterli insieme nonostante i salti temporali in cui spesso ci sono, non è facile. Però Alessandro Rack ci è riuscito due volte con questo film L'arte della felicità e poi Gatta Cenerentola. Novembre ancora Guappe Cartò. Questa da cosa? E questa da Gatta Cenerentola. Se con l'arte della felicità, piccola perla dell'animazione, ha aperto una breccia nel cuore degli spettatori e una speranza che questo genere prenda sempre più corpo e importanza nella nostra nel nostro paese, insomma, e nella nostra cinematografia, grazie, insomma, a questo altro lavoro ha fatto le cose in grande, messo le cose in chiaro, perché Gatta Cenerentola, come vi dicevo prima, è tra i 26 titoli in gara agli Oscar 2018 come miglior film di animazione, ideato e realizzato da più autori, anche in questo caso Alessandro Rack, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. La lavorazione a lavorazione finita hanno deciso di affidare le voci dei personaggi a un cast di attori molto bravi, il più famoso di tutti Alessandro Gassman, che ha detto del film, ha definito l'opera animata un capolavoro, un miracolo napoletano. Poi Maria Pia Calzone, Massimiliano Gallo e Mariano Rigillo, tutti molto, molto bravi. Massimiliano Gallo nel ruolo di Ore, davvero perfetto. Gatta Cenerentola si ispira a piene mani al racconto datato del 1634 dello scrittore Gian Battista Basile, e poi è ambientato ad oggi in una Napoli contemporanea dove criminalità e vizio la fanno da padrona. In mezzo alla malavita abitano però anche delle anime pure, tra queste c'è Vittorio Basile, il cui nome ricorda il grande Vittorio De Sica, padre del neorealismo italiano, e lo stesso Gian Battista, scrittore e padre putativo di Cenerentola. E come vuole la storia, dopo essere stato freddato da un boss di Napoli, Vito lascia la propria figlia Cenerentola tra le grinfie di una matrigna di sei sorellastre, e comincia così la storia di Gatta Cenerentola. Il Dario Sansone, che è uno degli autori, nonché uno dei musicisti che hanno fatto parte della colonna sonora nel gruppo Foia, no? Questo mi sfugge, e ha dichiarato a proposito del film: quando ci proposero il soggetto saltammo dalla sedia, siete fuori, è lesa maestà. Poi però questa è la storia con l'S maiuscola della letteratura europea. Gian Battista Basile è un pezzo da 90, e poi quella del teatro, Roberto De Simone nel 76 con la sua Gatta Cenerentola rivoluzionò la scena non solo italiana. E appunto questo testo originale, il testo di Basile, è stato il punto di riferimento. Poi, per chi non lo sapesse, è abbastanza pulp anche la favola, e inizia proprio con un prologo epilogo in cui Cenerentola decapita la matrigna. Insomma, ci siamo capiti. La luna di giorno e abbiamo di nuovo in collegamento dottor Zingarone. Ci sei, Claudio? Sempre qui, ci sono. Senti, allora abbiamo mandato Aria Italiana, poi novembre e questa era la luna di giorno. Sì, esatto, questo, guarda, mi attacco sulla luna di giorno perché vabbè, la November Wave e la luna di giorno fanno parte della realtà Cenerentola, che sì, nel 2017 me ne abbiamo già parlato, prima. Però la luna di giorno, il video della luna di giorno è stato realizzato dalla regista Isabel Montoya, quindi invito tutti ad andarlo a vedere perché è un piccolo cortometraggio in realtà, lei ha creato veramente un cortometraggio. E con questa regista abbiamo collaborato, infatti mi attacco, con un altro film che non è ancora uscito ufficialmente, un altro cortometraggio in realtà, sì, che non è ancora uscito ufficialmente perché sta facendo il giro del mondo e sta vincendo un po' di premi in parecchi festival, anche molti negli Stati Uniti. In questo momento è nel festival a Kansas. E il film si chiama Mourir au son des violons, cioè morire ma ai suoni al suono dei violini, letteralmente. Quindi di Isabel Montoya, che affronta un tema meraviglioso che è appunto quello della morte, quello della perdita, ma in una maniera molto originale. E dove troverete, poi penso che metterete in seguito dopo il nostro ultimo intervento, dove fanno parte questi brani, Il treno dei guappi e La sciamarrata, che appunto mettete. Quindi già invito tutti a vedere il video della luna di giorno e poi aspettare insomma che sia reso pubblico questo Mourir au son di violon. Ciao Claudio. E poi pronto? Ciao Claudio, sono Ottavia. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Così, appaio così. Faccio la trasmissione con Federico. Basta così. Senti, intanto complimenti. Un'apparizione. Mi è piaciuto tantissimo ascoltare la vostra musica. Questo che è passato adesso è il mio brano preferito tra quelli che ci sono stati, ma sono bellissimi anche gli altri. Appunto, sono contenta che hai accennato a Isabel perché mi ero incuriosita leggendo la sua biografia, non ho trovato molto nella rete, però insomma ci tenevo che tu ci raccontassi un po' di lei, e visto che io insomma non ho tante notizie per raccontare di questo cortometraggio e del suo lavoro e del insomma come vi siete conosciuti. E poi sono molto curiosa rispetto al fatto che leggendo la vostra biografia venite tutti da parti d'Italia diverse, ma dove siete incontrati? Come avete fatto poi nonostante veniate da posti diversi a riunirvi e a stare insieme e a continuare questa bella storia musicale? Ecco, come avete fatto poi a decidere di andare? Sono incuriosita da questa cosa, che se venite tutti. Sì, noi ci siamo trovati tutti a Perugia e poi vi siete accordati per andare a Parigi. E poi abbiamo finito questa collaborazione con Madeleine Fischer. Come vi siete conosciuti con Madeleine? Madeleine, diciamo la nipote di Madeleine, ha conosciuto l'attuale violinista e chitarrista che fanno parte del nucleo insieme a me dei primi. E c'era un altro contrabbassista e questa Madeleine Fischer aveva messo insieme molte persone per creare il suo film musicale. E diciamo noi, quindi è riuscita, insomma noi appena ci siamo incontrati, noi futuri Guappe Carto, è scattato come una scintilla. Oh, una favola proprio. Storia d'amore. Una favola, sì, ma l'avevamo capito subito, più di tutti quegli altri che collaboravano, che stavano collaborando, che magari per loro era un momento di passaggio. Noi avevamo capito subito che sarebbe stata la nostra vita, e Madeleine ha fatto in modo che noi ci credessimo ancora di più di quanto ci stavamo credendo. E di conseguenza, dopo aver fatto i 19 brani che le avevamo promessi, noi provavamo per strada, senza cantanti, senza nessuno, e vedevamo che la musica aveva un effetto travolgente, anche semplicemente senza parole. E da qui, sai, vedevamo il cappello che ogni volta si riempiva di soldi, di gente che comunque ci offriva sempre dei bei gesti, che ci faceva dormire da una parte. Quindi abbiamo capito che potevamo anche essere indipendenti da ogni forma di lavoro, cioè poteva essere un reale lavoro. Quindi viaggiando siamo trovati insieme, siamo andati a vedere cosa succedeva a Parigi, no? Visto che si parlava tanto della città della cultura e di tante cose legate alla musica e non solo. E quindi una volta arrivati lì non ci siamo detti, ragazzi, siamo nel posto giusto, anche perché oltre ad avere molti posti per suonare, che ci hanno permesso appunto di fare il salto poi dalla strada ai caffè, dai caffè alle sale, dalle sale ai teatri. In che... più ha una contaminazione talmente grande di musica che viene da tutte le parti del mondo, che è anche una vera e propria scuola, dove noi quindi abbiamo imparato tanto e abbiamo potuto nutrire anche la nostra musica. E, insomma, ci viviamo da ormai quasi 13 anni. Tra l'altro già nella vostra musica, da quello che ho potuto sentire, c'è tantissima contaminazione. Non so se ci sia anche perché venite tutti quanti da realtà diverse, no? Regionali diverse. Già noi venivamo da gruppi musicali diversi. Io ho fatto anche metal, per dire. Sì, ma infatti c'è un po' di tutto c'è un po' di tutto nella vostra musica: fisarmoniche, gitane, rock. Si sentono tanti suoni mescolati insieme. Poi Parigi ha alimentato ancora di più questa cosa. Quindi, e poi noi siamo, non abbiamo paletti, nel senso abbiamo la fortuna di essere liberi e tra di noi ci diamo tanta libertà di espressione, di conseguenza vengono anche queste influenze di vario stampo. Si sente infatti, Claudio. E poi ti volevo chiedere, invece, ci racconti un po' di questo cortometraggio che sta facendo il giro del mondo e che speriamo di vedere presto anche qua da noi. Sì, certo, no, io non vedo l'ora anche perché noi. Non l'ho ancora visto 2 anni fa, una volta lo vorrei rivedere. È un film meraviglioso, scritto da appunto Isabel Montoya, dove fa anche l'attrice, dove anche noi facciamo gli attori. Tra l'altro bellissima Isabella, ho visto delle sue fotografie su internet, è veramente molto bella. Sì. Sì, è una bella ragazza. E niente, lei ha un grande talento, che è quello della scrittura. Dopo aver fatto l'attrice per tanti anni, adesso è iniziato, diciamo, la carriera cinematografica come regista. E quindi adesso ha preso la penna in mano, scrive meravigliosamente, assomiglia molto alla nostra musica, al suo modo di scrivere, è molto fantasioso. Non a caso abbiamo affidato a lei appunto La Luna di Giorno, e quando ci ha detto: ragazzi, ho la sceneggiatura, vi metto tutti sott'acqua. Come sott'acqua? Ma come? Quindi avevamo capito che aveva la nostra follia. E ha scritto questo cortometraggio che si chiama Mourir au son de violon, e come vi dicevo prima parla di un tema meraviglioso, che è appunto quello della morte, della perdita della nonna, però è fatto in maniera talmente ironica che poi diventa ancora più profondo di quando si affrontano dei temi in maniera triste. Quindi uscirà appena finisce questo giro nei festival, noi non vediamo l'ora di vederlo. Bene, allora Claudio, tra l'altro c'è una sorpresa, perché siamo riusciti in quest'ora a contattare Alessandro, per cui adesso sentiremo lui anche rispetto al vostro rapporto in questi due film che sono... Datemi un abbraccio. Esatto. Enorme. Senti, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per chi volesse saperne di più sulla vostra attività? Sì, sui brani che abbiamo sentito. No, magari, sui film. Su pagina Facebook, okay. Sito internet e quanto. Ok. Vabbè, il gruppo si chiama Guappe Carto, in Francia dicono Guappe Carto, non so perché non mettono l'accento alla fine. Che lo mettono dappertutto, Guappe Carto Musica su Facebook, su guappecarto.com, e seguire tutte le nostre date, e seguire anche questi film che, insomma, dove abbiamo avuto la fortuna di partecipare. Bene, allora un grande abbraccio, a risentirci presto, speriamo. Va bene, quando volete, noi siamo qui. Ciao, Claudio, grazie. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Salutatemi Alessandro. Sì, ciao. Questa era In Due per Guappe Cartò e, come annunciato prima, abbiamo in collegamento Alessandro Rack. Ben ritrovato, caro. Salve, salve. Intanto ti abbraccia Claudio, dottor Zingarone. Un abbraccio anche a lui. Per più di una ragione. Allora, come ti dicevo prima, abbiamo fatto questa puntata dedicata a loro e sono stati una presenza importante nei tuoi due film. Allora ti chiedo com'è il vostro rapporto, Alessandro? Niente, loro ci ispirano e noi poi facciamo i film proprio spinti da questa ispirazione. No, veramente, nel senso che fanno delle colonne sonore prima ancora che esistano i film. Ah, ok. Noi quando ascoltiamo le loro musiche, poi chiaramente ci vengono in mente scene, ci viene in mente la scrittura, sono straordinari. Come vi siete conosciuti, Alessandro? Siamo conosciuti attraverso Dario Sansone, che è il frontman della band Foia e che è uno dei quattro registi della Gatta Cenerentola e aiuto di regia del film precedente L'Arte della Felicità, e che è anche un grande disegnatore, tra l'altro. E niente, tramite lui siamo venuti in contatto, e quindi quando abbiamo sentito per la prima volta la loro musica abbiamo cominciato ad ascoltarle in studio mentre lavoravamo. Quindi non c'è un'idea di collaborazione assolutamente, solo che poi hanno stregato il nostro lavoro e quindi come se noi avessimo lavorato con quella colonna sonora mentre facevamo il primo film. Sì. E quindi poi chiedemmo se gentilmente potevano concedere il diritto di utilizzare alcuni loro pezzi all'interno del film, che erano diventati oramai dei pezzi strutturati. Okay. E così poi bene o male è avvenuto anche per il secondo film, Gatta Cenerentola. Beh, quindi è uno di quei casi in cui la musica viene prima delle immagini, il che ci pare parecchio sorprendente e bello. Sì, viene prima delle immagini, ma nei tuoi due lavori veramente si compone in modo quasi totale, no? Con le immagini è molto armonico tutto quanto. Si confondono. Sì, esatto. Non sa più cos'è l'immagine e cos'è il suono. Sì, in qualche modo. Una sinestesia. È bello, una bellissima sinergia per chi vede il film e per chi poi dopo ne ascolta anche le bellissime frasi, insomma, che ho sentito nell'Arte della Felicità. L'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, mi sono commossa veramente, complimenti. Poi io stavo raccontando a Fede che ieri mi sono imbattuta nel vostro sito web, mi è piaciuto un sacco. Poi vedrai una mia email che ti ho scritto proprio ieri sera nottetempo. Senti Alessandro, dei bei risultati anche per la Gatta, vero? Sì, poi tra l'altro diciamo sta continuando il percorso. E quindi sì, no, noi siamo contentissimi. Poi diciamo in linea massima, noi fatto un film, tutto quello che può venire di buono ci fa solo contenti, ma non è che abbiamo aspettative particolari, però devo dire che poi è bello questo fatto che il film continui a darti delle novità, delle notizie. Beh sì, due film mentre gira. Poi due film insomma coraggiosi, perché insomma stavamo parlando prima con Federico, ne abbiamo raccontato un po' di cose, li abbiamo un po' narrati nelle loro caratteristiche, nelle cose più insomma che mi hanno colpito di più. Sono stati coraggiosi perché insomma nella produzione cinematografica italiana i film di animazione, si sa, non è che i produttori ci facciano tanto affidamento, perché sono più interessati, più preoccupati di fare botteghino che fare prodotti di qualità, ma in questo caso hanno fatto centro, anche perché il primo era bellissimo e comunque ha avuto un grande successo, e il secondo sta in lizza per gli Oscar, quindi insomma in bocca al lupo. Diciamo che il coraggio è sempre del produttore in qualche maniera, oppure semplicemente non sa quello che fa. Però, da parte nostra c'è più che altro il coraggio di fare cose low budget, perché chiaramente è ovvio che questo tipo di scommesse le si può fare eticamente perché si ha un budget basso. Quando la macchina messa in piedi è gigantesca, per esempio, già è un po' più difficile, certo, avere questa libertà diciamo nel testare, sperimentare nuovi linguaggi oppure anche nuovo pubblico. Alessandro, noi ti abbracciamo, ci salutiamo con un pezzo dei Foi, A chi appartieni, per cui io ti faccio un grande bocca al lupo per la gatta, perché sta proseguendo il suo percorso, e magari a presto su queste frequenze. Va benissimo, un abbraccio a tutti voi e ai guappi anche. Ai guappi di cartone. Ciao. A tutti guappi. A tutti guappi. Ciao. Ed è tutto per questa puntata, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 15 alle 16, ci salutiamo con i Foglia, cara sì, Ottavia. Ricordatevi di sottoscrivere, perché questa radio ha bisogno di voi per continuare a vivere. Lo potete fare attraverso il conto corrente postale 6180402 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 Via dei Volsci 56 Roma, attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. mi sono tutta impappinata. Ciao, la settimana prossima, questi sono i Foglia. Questa non mi parla mai, e che te mi miso un cuore che sbatte e non sape chi è. Non è come sento che io vero, si piglia e m'invento una via, ma sace che non m'è chiusura, si resta sedata a guardare. Crema, rindo sonna la iera, ma non sapevo che fa. Vaga, non briaga te l'umenta, tutta attorno pare piena, e non bene studio dolore. Rida, strumpazza la mia agenda, so sbagliare, so contenta, non mi importa chi appartiene, a chi appartiene. E in capo c'è il mio pensiero, corrente che tu c'è giornata, pannocchio oramai si mistera.